English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Le persone si dividono in due categorie, dog persons e cat persons. Io sono assolutamente un amante dei cani, però insomma i gatti non mi dispiacciono. C'è invece un amante dei gatti sfrenata, che è Giulia accanto a me, e che quindi ha detto: perché non dedichiamo una trasmissione a Simon Tofield? Ma non solo a Simon Tofield, al suo gatto. Io non so se questo nome dice qualcosa a qualcuno, ma sicuramente in tanti hanno visto su YouTube, su internet in generale, i cartoni animati, i piccoli cartoni animati del gatto di Simon, Simon's Cat, simonscat.com, per andare a curiosare se non li aveste ancora visti. Com'è nato questo personaggio, questo gattino? Beh, lo ha spiegato lo stesso Simon Tofield. The idea of the first film came from me working at home, trying to learn some new computer software. And that morning, Hugh, who was then a kitten at the time, had been jumping all over me, trying to wake me up for his breakfast. And I thought, what a brilliant idea for a story. Meow. So I sat down and just started to animate, you know, the bed with Hugh jumping up and down. The next thing I know, I found out it had been put to YouTube. And by the time I found out, it got like 3 million hits. I realised I had to give it a name, and I couldn't think of anything to call it. And everyone I work with always called it, you know, my cat, Simon's cat. What are you going to do with Simon's cat? And so I thought, there you go, that's what I'll call it, Simon's cat. And the name just stuck. Com'è nata l'idea di questo primo film? Intanto gli ascoltatori di English 24 hanno subito capito che Simon Tofield è molto inglese. Sì, vive e lavora a Londra, lavora per uno studio di animazione, tra l'altro pluripremiato, uno studio, e però lui lavora da casa e poi ha un rapporto con questo studio di animazione. Quindi lui era working at home, stava lavorando a casa, stava trying to learn some new computer software, perché sappiamo quanto la rivoluzione tecnologica abbia appunto rivoluzionato il modo in cui si fanno i cartoni animati, e però c'era anche il suo gattino, che at the time was a kitten. Kitten vuol dire proprio un micetto piccolo piccolo. E cosa faceva? Noi abbiamo sentito le zampine, ovviamente non sono le zampine reali, ma quelle animate del gatto. Cosa stava facendo? Anche questo filmato che noi abbiamo solo potuto ascoltare. He was trying, the kitten, to wake me up for his breakfast. E che cosa? Quindi cercava di svegliarlo perché voleva fare colazione, naturalmente. E che come faceva per svegliarlo? Had been jumping all over me, cioè mi saltava addosso dappertutto. Guardate, queste cose per chi non ha un gatto forse sembrano strane, ma i miei genitori, per esempio, hanno un siamese che dopo una certa ora al mattino gli morde il naso finché non si alzano per dargli la sua scatoletta preferita del mattino. Quindi succedono queste cose. Sarebbe un'idea perfetta per un episodio di Simon's Cat. Come ha fatto poi a decidere di animarlo e di metterlo su internet? Quindi appunto, siccome doveva fare pratica con questo new computer software, ha pensato: what a brilliant idea for a story, che idea brillante, questo è il gattino che cerca di svegliarmi, jumping all over me, all over my bed ovviamente. E quindi started to animate the bed with Hugh, perché Hugh si chiama in realtà Simon's Cat, jumping up and down. E naturalmente questo si fa al computer, e poi dopo in questi filmati che trovate sempre su Simon's Cat si vede anche appunto parte di questo processo in realtà complicatissimo per arrivare poi a un film. Fa bene a chiamarlo film, che poi però è un breve cartone animato di pochi minuti. E poi l'avventura di YouTube. E the next thing I know, or the next thing I found out, quindi lui ha fatto il suo filmino, tutto contento perché è riuscito a dare appunto a mettere in un film la storia del suo gattino. E poi 3 million hits on YouTube, l'ha messo su YouTube e gli hanno detto: guarda che ci sono già 3 milioni di persone che l'hanno guardato. E il nome? E a quel punto bisognava dargli un nome, e siccome Thomas Elliot diceva che i gatti hanno 3 nomi, un nome lo sanno soltanto loro, e comunque insomma bisogna dargli un nome, noi esseri umani dobbiamo dargli un nome, e lui semplicemente lo chiama Simon's Cat, perché tutti i suoi amici lo chiamavano Simon's Cat, e quindi the name just stuck, cioè alla fine il nome è rimasto quello, anche se lo sappiamo, il vero nome di questo kitten è Hugh, come Hugh Grant. Ma come fa Simon Tofield a disegnare le sue piccole storie del suo gattino? Ecco qua, lo spiega lui. I would say my style of drawing is quite sketchy, and I like to keep it quite loose and spontaneous. I'm just drawing into the computer using the Wacom tablet, which is this thing, and Wacom pen. and every image is a little tiny bit different from the last one. And when this is played back, 25 frames a second it'll move. The animation's done before the sound, which is quite rare in animation. When I want to create the soundtrack, I work very closely with Russell Pay of Shruti. Well, the actual meows they don't come from a real cat. I make all the meow sounds. And which then he drops into sync on my animation. And then he does all the foley, which is all the scratches and the bangs and the claw marks and everything. So that's how we get the sound done. My style of drawing, il mio stile di disegnare, com'è? It's quite sketchy. Sketch, naturalmente, è lo schizzo. Se li vedete, sono effettivamente disegni molto, molto semplici, in bianco e nero, tra l'altro. Quindi è proprio un tratto semplicissimo e gli piace to keep it quite loose. Loose vuol dire libero anche, no? Si può dire, per esempio, di un collare quando è lasciato andare, quando gli si dà un po' corda, and spontaneous, è spontaneo. Anche se, come dicevamo prima, Simon lavora col computer, quindi he draws into the computer con queste, forse se avete degli amici grafici o illustratori le avrete viste, sono delle, come se fosse la tavoletta del mouse, ma in realtà mentre si scorre con la Wacom pen sulla Wacom tablet, quello che voi vedete, quello che si disegna con questa matita in realtà appare sul computer e poi può naturalmente essere corretto in mille modi. Poi lui utilizza la solita tecnica dell'animazione, quindi 25 frames a second, 25 frame fotogrammi al secondo, così dall'impressione del movimento, ma abbiamo sentito che lui stesso fa i versi dei gatti. Sì, nel filmato si vede anche, lui dice the animation is done before the sound, quindi prima viene l'animation, poi il sound, which is quite rare in animation, è il suo metodo di lavoro, non diffuso, e poi dice quei meows che sentite un po', quelli don't come from real cats, non sono di veri gatti, ma I make all the meow sounds, perché evidentemente si diverte molto, anche se lavora con un suo collaboratore, una specie di ingegnere del suono dell'animazione, che poi drops into sync, cioè fa in modo, li mette in sincronizza con l'animazione questi meow che Simon fa. E approfittiamo anche per sottolineare un false friend, actual meows, actual che non significa attuale, ma significa vero, reale, autentico. Allora, abbiamo sentito come Simon Tofield fa questa animazione, ma le storie da dove vengono? Ascoltiamo sempre Simon Tofield. I think the best story idea has to come from real life, really. And that's what made the book so great, is because I could put a lot more information in there than, I've done three films, but basically all inside, but with the book it allowed me to go outside into the garden, and his whole universe could just opened up, and I could bring loads more characters to see that you haven't seen in the films, and it just fleshed it out and made it a lot more scope for his humour, really, and lots of other characters he can bounce off, and a lot more friends out there for him to meet. I had no idea it would become this huge phenomena that it's turned into. I feel very honored that it has, you know, it's amazing. Con il miau finale di Simon's Cat, io devo dire sono sempre conquistata da questi huge phenomenons, da questi fenomeni vastissimi che nascono grazie alla rete e poi riescono anche a diffondersi nei mezzi tradizionali. Ad esempio lui ha fatto un libro. Sì, un libro che è uscito in Inghilterra, è uscito da pochi giorni anche in Italia ed è sostanzialmente stesso, sempre in bianco e nero, eccetera. Però what made the book so great, secondo Simon, che quindi è apertissimo appunto a spostare da internet alla carta il suo personaggio, è che nel libro I could put a lot more information, cioè il libro diventa più ricco in un certo senso, perché questi tre film che lui ha fatto, oltre a quello in cui viene svegliato brutalmente, ce n'è uno in cui il gatto vuole entrare dalla porta e poi alla fine spacca la finestra, e poi ce n'è uno in cui gli rovina la visione di un programma televisivo perché vuole mangiare sempre, quindi questi film erano basically all inside, cioè sono stati appunto in un piccolo ambiente domestico. Invece il libro, con il libro lui ha portato Simon outside. With the book they allowed to go outside, gli ha proprio permesso di uscire. To allow to, quindi permettere to go outside, into the garden, e attorno a Simon ha creato un sacco di altri piccoli personaggi, a universe opened up. Addirittura si è aperto un universo, mentre appunto a casa sono lui, il torturato, e Simon's cat, che è il torturatore. L'abbiamo detto che è un huge phenomenon, cioè un fenomeno vastissimo. To turn, naturalmente uno di quei verbi che può essere usato come phrasal verbs in tantissimi modi, quindi to turn into vuol dire trasformarsi. Quindi this huge phenomenon that Simon's cat has turned into, quindi è diventato un enorme fenomeno. I feel very honored, dice Simon, e poi però ribadisce is amazing, cioè è sconvolgente, come Amazing Stories, che era una famosa serie televisiva un po' tipo X-Files degli anni 70, credo. Devo dire, very honored, quindi sempre questo atteggiamento molto gradevole e grazioso degli inglesi, è molto onorato di essere diventato uno huge phenomenon. Vi dico ancora come si chiamava il gatto, perché so che chi non l'ha conosciuto ora avrà la curiosità di andarlo a scoprire in rete. Simon's Cat, semplicemente il gatto di Simon. E quindi salutiamo Simon Tofield, il creatore del gatto di Simon. Vi ricordiamo che in edicola c'è il nostro English 24. Ringrazio anche Fabio Cantadori in regia, anche lui ha un gatto e quindi ha riso tantissimo durante questa puntata di English 24, che si conclude qui. Da Marta Cagnola, Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.